cadendo sull'erba bagnata e morbida, realizza di colpo con una lucidità sicurissima una cosa. E la cosa è che ci personaggiamo tutto il tempo. Fissiamo gli altri in una forma che ci è comoda per prevedere quello che faranno ed evitare di avere paura della loro complessità fluida e multiforme e terribile. E va bene così, perché ci è utile nella vita di tutti i giorni, ma oltre il sipario nessuno di noi è veramente quello. Nessuno può fissarsi in una forma e non essere più paurosamente dinamico, sfumato, vaporoso, mostruosamente individuale. Non siamo che caos, si dice poco prima di chiudere gli occhi. Non siamo che caos. Ed è questo forse il passaggio che ci manca, il passaggio che ci condanna a non capirci come invece capiamo il vento.